come quando tu chiudi la macchina, è la stessa cosa. La sera, prima di andare a letto, prendi, stacchi il cavo dell'antenna e metti tutto in terra. La corrente, soprattutto la corrente. La radio non deve essere alimentata, la corrente dall'alimentatore bisogna staccare, perché sembra così, ma passano un attesino venuto da vano, che a me mi è passata con la ciabatta chiusa, mai più ciabatte. Con le ciabatte c'è un interruttore, chiusa, mi spenta, è passata la corrente dentro, la radio era 220, la disintegrata, mai più ciabatte, mai più. Cioè salvavita con tutto il quadretto elettrico ben fatto, le prese sono attaccate lì, abbasso salvavita, e con salvavita abbassato non entra corrente, tranquillo non entra. Portate le ciabatte che vengono alla via della Ticino e comprate la Elcom, lo stesso non c'entra affatto. Questo è proprio l'interruttore che non è ben protetto. E vabbè. Io li staccavo sempre, la notte mi sono dimenticati. E poi può darsi che non sia anche quello, io ho pensato quello, ma può darsi che non sia anche quello. E vabbè, comunque abitate già. Non state un conto, ma d'inverno i temporali possono arrivare anche di notte. Siete umido, non ti avvisi e ti frega. Gava gava. E a che punto sei giunti? Sempre tirato su tutto? Sì. Sì, vai facendo nuove cose, dai. Ma è già tutto chiuso il secondo? Sì, sì, c'è da fare i pavimenti. Adesso vediamo. Però stiamo sistemando la parte esterna. Ah, non ho capito. Vabbè. Io così. No, sono da tanto che non lo vedo. Da parecchio, parecchio, parecchio. Ci siamo sentiti da poco, ma a vederlo sono da tanto. Se lo vedi, salutamelo. Va bene, va bene. Avanti, Antonè. C'era anche Marco che stava pranzando. Ma Marco si sta pranzando, lo sai, che lui è un ratapignara, quindi deve digerire. Che se lo sta pignando? Asco, no, è già iniziato da molto. Penso che abbia già finito. E lui è un ratapignara, è un algarese, è un ratapignara, è pipistrello, quindi lui è come i pipistrelli, mangia, pranzo alle 8 di sera, poi pranzo, poi cena a mezzanotte e mezza, l'una, poi sta tutta la notte sveglio, passeggiando, è come i pipistrelli, come un ratapignara, dicono in algarese. Siamo rimasti dei tre, mi sa, tiro, riprendo. Ma lui, adesso... Anch'io mollo perché vado e faccio la doccia e poi a cenare. Ma che ne sono? Da 7 e mezza, che ne sono? 8 meno 20. Ora sono già, non dico in ritardo, ma sai. Sì, vabbè, già è presto. E tu il cane portato hai già? No, ancora no, alle 8 lo porto. No, io ce l'ho portato prima perché... Stamattina è uscito un bel presto, capito? Dopo prendo, l'ho portato dove c'era la partita e quindi l'ho portato alle 7. Ho fatto tutto, adesso è tranquillo, sino a domani. Io porto dopo. Tanto già è andato anche verso le 4. Oh, hai uscito anche verso le 4? Sì, io l'ho portato 3 volte, la mattina presto, poi lo porto verso le 3:30-4 e poi lo porto la sera alle 8. Filippo c'è 2 volte, boh. No, non esce, no? E vabbè, poi dipende sempre dalle abitudini che gli dà, io l'ho abituato così, oramai, chi ce lo esita. Se non lo porto si mette a mugugnare, se ne sta sempre... Ah, uscire, no, allora, conviene portarlo, già va bene, infatti, sinceramente adesso già, va bene Tino, allora ti ripasso il microfono e stai andando a farti la doccia, va bene. Meglia, salutami Correa, ho visto che sono un po' in PMR anche, quindi, ho fatto un po' di ascolto anche di Focale. E stavamo chiacchierando anche loro. Va bene, dai, signori, vi saluto, magari alle prossime adesso vado perché sennò faccio tardi, poi mi arrabbiscono i bimbi e secondo me te la giocare, quindi devo dare anche un po' di tempo e priorità a loro. Vi saluto, ciao Claudio, ciao Gianni, dai, riprendi tu Gianni, ascolto il finale e poi vado via. Ciao Tino, dai, buona continuazione e buona carica quando la fai, avanti Claudio. Ciao T, saluti a casa, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buona giornata per domani. Avanti Antonio. Lesi. Ciao, ciao. Ciao, Lesi. Prata Pignara, ci sei? Sì, sono appeso a testa in giù. E lui? C'era un po' di freddo qua, quindi mi sono messo la giacca. Stufa non abbiamo messo oggi. Vabbè, non c'è ancora il tanto. I giorni passati l'abbiamo messa perché c'era freddo, ancora no. La devo anche riempire. E allora, Claudio, cosa mi dici? Cosa mi racconti? E cosa ti racconto? Cosa ti racconto? Stamattina ero in giro, sceso da Gigi a trovarlo. Mr. Massimiliano, mi ha preso un caffè, due chiacchiere, mi sono rientrato a casa, sotto a prendere due fesserie all'Eurospin. E poi niente, poi dovevo la TV, un po' di sport, un po' di radio come sempre, domani inizia la settimana, oggi arriva. E tu già ancora in malattia? Sì. Sino a quando? Fino al 15. Di dicembre? Capo. La Madonna Gesù Cristo. Allora quando sei così, ma non sei più rientrato? Sì, sono rientrato e dopo sono rientrato in malattia perché mi si è riaperto. Gesù, allucinante questa, di a te è costato questa uscita. E poi con il diabete, che mi ha fatto aver avuto un taglio, c'è stato il sugar, ma c'è stato poco in malattia. Non si chiudeva più, Lo so, purtroppo sto pagando sulla mia pelle, lo so che è così. Fin quando guarisce io non posso tornare, perché poi per riaprirsi di nuovo puoi starci altri 6 mesi, non mi sta bene. Fin quando guarisce come si deve, ha detto il dottore, assolutamente, pensi prima alla salute, mi ha detto. Vabbè, può rimanere 6 mesi in malattia, puoi rientrare e poi puoi riandare. No, ma io sono manco 2 mesi forse. Vabbè, ma dico, 6 mesi devi fare poi un giorno, una, due, tre giorni, poi puoi andare in malattia. Prima di quello, 6 mesi, non più di 6 mesi, se no c'è licenziamento. Purtroppo i non sono mai a favore nostro, sono sempre a favore loro, capito? Vabbè, perché te lo dico perché un mio collega ha fatto 6 mesi continui, ha avuto un forte esaurimento perché è venuto a mancare la moglie, quindi immaginate tu come te l'hanno trattato. È venuto un forte esaurimento e ha fatto 6 mesi continui di malattia. Allora certo mese gli hanno mandato la lettera di rientrare e lui ha rifatto, non è rientrato, ha fatto praticamente altro certificato, mi pare di 30 giorni pieni. Non l'hanno detto più niente. Al 40° giorno, perché poi l'autocertificazione si è andata avanti, al 40° giorno gli è arrivata la lettera di licenziamento. E sono mito al lavoro. Lo so che funziona così, perché io sono iscritto al sindacato, quindi tutte le cose le conosco. Lo so che funziona così. Puoi rientrare anche un giorno e poi ritornare. Ma io non sono rientrato un giorno, sono stato 3 mesi dopo che l'ho avuto, lavorando. Poi mi hanno cambiato, mi avevano messo in negozio, te l'avevo detto. Poi mi hanno cambiato e mi hanno messo di nuovo la guida perché il mio collega è andato in ferie. È da lì che è partito tutto. Mi sono trovato il piede pieno di sangue. Sentivo questa cosa cioc, cioc, cioc quando camminavo. Cazzo, ho detto cos'è? Ho tolto la scarpa, cazzo, tutta la cazzo inzuppata c'aveva. Buoni sindacalisti, te li raccomando. Lo so, ma da una parte ti servono sempre, perché qualche consiglio te lo danno. ti fanno conoscere le leggi, cioè tu sei proprio all'oscuro di tutto, non capirai mai nulla. Diciamo che già ce ne sono anche venduti. Noi ne abbiamo avuto uno che si è venduto e ha fatto la fine della merda proprio, scusando la frase, perché praticamente l'hanno assunto al CEDI, l'hanno assunto perché ha tradito a noi, è andato a dire, cioè il principale sapeva di tutto quello che, praticamente sapeva quello che dicevamo alle riunioni, e noi ci guardavamo male uno con l'altro pensando che era la cascetta in mezzo a noi, invece era Edo che andava a riferire, davano le bustarelle e riferiva, poi l'hanno preso al CEDI a lavorare e a fare il contrario di quello che faceva, praticamente invece che proteggere un lavoratore applicava le leggi quando uno si comportava male, eccetera eccetera, e lui faceva applicare le leggi, lui conosceva tutte le leggi, era informatissimo questo sindacalista, e poi hanno chiuso il CEDI, ha fatto la fine della merda anche lui. Bellista. Che sindacato c'ha io? CGL. Mamma mia, stagione Marco. Mamma mia, che brutta. No. Allora CGL è quella che ci ha fatto cambiare il contratto. Ci è venduta con una multinazionale, perché, capito? Sono accordati. Dicevo quello che c'era una testa urbana, ma un barca di sciuti, noi siamo mancati circa 400 euro la busta paga con questo nuovo contratto. Ci hanno applicato quello regionale, capito? Prima avevamo invece il FISE, l'Exauditra si chiama, che è quello dell'ecologia e ambiente, un sacco di soldi. La CGL si è venduta, no, io sono CISAL. CISAL, che quello settore fa anche la parte elettrica. CISAL, insomma, ci troviamo abbastanza bene. La nostra referente è la moglie di Walter Turu, quello che giocava nella Torres. Abbastanza tediosa. E comunque Marco ha ragione, ci vuole, in certe situazioni ci vuole, perché se è un problema aziendale l'azienda non ti riceve, mentre invece il sindacato lo deve ricevere, capito? Vabbè, no, perché la mamma dovevano aiutarla per una cosa, che il provveditorato ha perso un documento, non se lo trova più, e le hanno, diciamo, lei doveva pigliare 200 euro in più, mi pare, circa in pensione, però siccome un provveditorato hanno perso un documento, ne danno di meno, capito, di pensione. Andata da questi sindacalisti, lì in via 4 novembre, vicino a Fusaro, mi pare. Sì, poi quello che si interessava è morto, adesso ce n'è una invece che non la coglie nemmeno, dice, signore, adesso da fare, ci vediamo un'altra volta, non fa che dire così. Lei doveva fare, come ha detto invece il cognato di Ivan, metti le cose in mano all'avvocato, perché se aspetti i sindacati te la pigli in, come che lo dici tu, in quella lingua, Claudio, in te le vossa ma, com'è? In come le vossa ma. Esatto, te la pigli in culo, a me, in poche parole. E così è stato, infatti non ci sono né notizie né dal sindacato né dal provveditorato. Capito? Lei, vabbè, si è fidata del sindacato e poi è di tipo che non fa niente di quello che deve fare per avere quello che aspetta. Quindi attaccati, le dovrei dire, capito? Peggio per te, peggio per lei, capito? Io me ne ero andato dal sindacato, poi mi sono riscritto quando ho visto che eravamo su un filo del rasoio, che stavano quasi per licenziare a tutti, che ci hanno detto che dovevamo sicuramente prendere meno come stipendio, perché se volevamo che c'erano, mi pare, 20 unità che dovevano essere licenziate. e abbiamo deciso così di fare, di prendere meno tutti gli stipendi e di tenere quelle persone che pure si sapeva nominative chi erano, quindi poteva capitare anche a me. No, per il patronato, soprattutto nel settore della mamma di Marco, è molto utile la UIL. La UIL si occupa molto di quelle cose, la CGL no. La UIL e la CIT, se tu sei andato in via 4 novembre c'è anche l'ufficio della UIL. No, la UIL è in via Budapest. La CIT mi pare ci sia lì. E comunque ci sono persone abbastanza valide. Vabbè, poi bisogna vedere appunto la situazione com'è, Marco, non so. No, io sono stato anche rappresentante sindacale anni fa, poi mi impegnavano troppo in queste cacchie riunioni, molte volte dovevo andare a Tramazza che c'erano riunioni, molte volte dovevo andare a Cagliari, a Oristano, mi sono rotto le palle e ho dato le dimissioni. E c'è un mio collega che infatti è sempre andato torrente a destra e sinistra. Per quanto riguarda l'organizzazione sindacale nostro. E poi c'è la federazione che c'è la segretaria regionale appunto che è la moglie di Walter, perché tu ci segui lì, va bene. Però ripeto, Marco, in certi contesti è meglio che ci sia, perché ripeto, in situazioni aziendali quando l'azienda dà delle direttive personale non è d'accordo, mi dice il sindacato di vetro perché loro si accordano, fanno, capito, anche a noi c'era un periodo che ci pagava il ritardo, che avevano bloccato gli straordinari, però sempre dovevamo essere puntuali, sempre sul posto di lavoro, qui e là, alla fine siamo rotti le balle, è terminato il sindacato e messo a posto tutto, perché li minaccia, li fa, capito, e quindi sai. Non è bello, non è che l'azienda di Franceschiello è una multinazionale, quindi apparire nel giornale con delle notizie, delle smentite, delle cose, no, non è bello. E quindi hanno tenuto il passo, grazie a Dio, già da un paio d'anni che stanno marciando perfettamente, però sempre ripeto grazie al sindacato, perché noi sì, dicevano il rappresentante nostro, non ricevevano mai, sì, alla fine è chiaro che convocati da loro, collegare del sindacato è diverso, c'è un avvocato di mezzo diverso, capito? Si sentono più pressati e più colpiti, quindi ha ragione già, in certi contesti ci vuole il sindacato. Beh sì, altrimenti se non esistessero i sindacati vi tratterebbero da schiave, me tutti. Io ero già da 2 anni che dovevo prendere lo scatto d'anzianità, scusate che nel mio lotto, nel mio distretto sono più anziani tutti, me l'hanno dato a settembre mi sembra, da 2 anni lo dovevo prendere, a settembre me l'hanno dato. Adesso scatta un altro e mi hanno dato il penultimo, perché ne ho uno solo, poi non ne ho più scatti aziende, quindi figurati, e grazie a loro che sono intervenuti e mi hanno fatto l'aria, perché devo lasciare a loro, sono 30 più euro, quindi perché devo lasciare a loro ogni mese, non li compisco. E a noi permessi non ce li davano mai, a noi ci spettano 2 giorni e mezzo di permesso al mese. E per qualsiasi motivo puoi anche prenderti per i cavoli tuoi, per andartene in giro, ci aspettano e basta, te li devono dare. Mi ha detto il sindacalista, tu puoi anche andare al mare con la famiglia e allora non gliene frega nulla, quelli sono i giorni spettanti e te li devono dare, e allora non ce ne davano mai prima, vecchia gestione. Adesso è cambiato tutto, ci danno i permessi, io ce li retribuiscono, quelli che non ci possono dare, insomma, siamo trattati un po' diversamente. Il permesso è retribuito, Gianni, si chiamano ROL e sono permessi retribuiti, quindi o lo fai o me lo paghi, c'è poco da discutere, sono permessi retribuiti, non è che l'azienda deve, sono permessi retribuiti, si chiamano ROL. Immaginate che io di permessi non fatti ne ho circa 120 ore, che infatti a fine anno queste 120 ore il sindacato, perché non solo io ma tanti, chi 90, chi 70, chi 60, si tramutano in dinà, capito? Permessi siccome sono retribuiti, non sono ferie, sono permessi retribuiti, quindi io non me li ho potuti fare perché tu non hai voluto per tue esigenze, però a fine anno me li paghi e sono un 14-15 giorni. Sì, infatti, io te li danno in ferie, boh, interessante che ti arrangi, che non te li brucino, ecco. Prima noi non ce ne davano proprio, e lui aveva detto al sindacalista, io faccio quello che mi pare, sono io il padrone, così gli aveva detto alla riunione. Io non avevo mai visto una persona così cattiva, così furiosa. Così stronza. Ma se l'ha accatto tu che cosa le puoi dire? Sono io il padrone, no? Tu ti devi allineare le leggi, sia le leggi sindacali che le leggi del contratto nazionale di lavoro. Capito? Le cose sono leggi del contratto nazionale di lavoro, dove tu non puoi andarle contro. E i permessi retribuiti o me li dai oppure me li paghi. Capito? Mi correggo, i miei sono circa 20 giorni che mi devono pagare. Capito? A fine anno, adesso mi prossimo mese 20 giorni più non fatti, le ferie me le sto facendo piano piano, ne ho ancora 17 giorni, ma adesso a dicembre ne faccio un'altra decina di giorni, quindi voi siete, lasciamo a cavallo dell'Epifania, quindi tra l'Epifania, tra il 6 e il 10-15 gennaio, e poi le ho finite, si riparte con quelle nuove da gennaio, quindi di quello mi posso mettere, però per me ci me li pagani. Mi pagani, adesso di là, un bel di là. Io ne ho 15 giorni di ferie ancora. Da fare. Ma mi avevo preso le ferie 15 giorni perché mi ero accorto che il piede stava andando male, pensando che questi 15 giorni se li mettesse a posto, invece ha peggiorato. E allora sono andato a farmi controllare. Cosa stavo usando? No, ma poi negligenza loro, perché cazzo sapevano che avevi questo problema, ti mettono a guidare. È chiaro che con lo sforzo, piede, sul freno, sulla frizione, eccetera, ti si è riaperta la ferita. Se invece magari rimanevi in deposito, rimanevi in negozio, il discorso cambiava. Non lo forzavi come l'hai forzato, quindi la colpa è loro, perciò per loro. No, ma noi pianteremo molto attenti, sempre a loro favore tutto, non venuto a... Io ti ripeto, grazie a Dio si sono sistemate un po' di cose, anche perché eravamo allo sfascio, come ti ho detto l'altro giorno. Finalmente la gente ha capito che l'azienda, la tua l'azienda deve rispondere, perché l'azienda a te ti risponde, quindi tu devi rispondere, lavorando, facendo il tuo lavoro soprattutto. Se poi sei uno sciacquino e ne approfitti perché pensi che l'azienda non ti faccia niente, allora hai perso. Loro Marco Condor, tratta Pignara, non ne ha problemi, è nulla tenente, quindi cosa ne ha tutti. Però ce l'avete un posto per Marco assumere? Sì, che ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, sono i turni notturni, lui del pipistrello li facciamo fare. E tanto le ratta Pignara, di notte le piace. Allora, non si può più, no? Da noi si entra per concorso adesso Gianni. Tutti quelli che sono entrati senza concorso sono entrati con le imprese, chi con l'ufficio autorità, chi con le imprese fidate, capite, poi Gianni tutti dentro. Ma adesso col contratto che abbiamo regionale devono bandire il concorso, se no restano tutti, non si può più entrare, se no cosa pensi che non ci avevo messo mio genero dentro? Già. Non si muove. Quella è un'azienda molto grossa, no? Per forza deve prendere queste precauzioni di controllo, perché se se ne frega la gente e poi alla fine fanno come la zona industriale, che a furia di fregarsi uno fregarsene l'altro, alla fine è andata a catasfascio. Ma tra l'altro, a parte la bella gestione che hanno, noi siamo in Commercio Italia, dovremmo essere intorno ai 25.000-30.000, compresa anche la parte spagnola, siamo 59.000 dipendenti. Quindi è chiaro che non è un gioco, ragazzi, gestire un capitale del genere, perché non è un SPA, è la nostra multinazionale. Quindi, però ti ripeto, la casa madre per le assunzioni quindi sia la mia che la casa madre. Le assunzioni hanno fatto un concordato con la regione. Infatti noi ci hanno applicato il contratto regionale uguale a quello del Manon, perché abbiamo gli stessi livelli e gli stessi diritti, perché facciamo lo stesso lavoro. Quindi togliendoci il contratto che avevamo prima con il GE Ambiente, che non era praticamente era un buon contratto, quello della Netezza Urbana, ci hanno tolto un po' di soldi, quindi è chiaro che ci hanno guadagnato, capito? In quel contesto lì prima potevi entrare col contratto vecchio, perché era un contratto che praticamente non ti permetteva il controllo da parte della regione, quindi non o concorso interno o concorso per titoli, quindi o interno oppure concorso pubblico. Adesso invece, se bandiscono un concorso per titoli, devi avere i titoli per poter entrare, oppure un concorso interno, quindi vuol dire che se sei, per dire, nel settore, già lavori in questo settore, puoi fare il passaggio diretto con noi, capite? E però è un casino, ci ho provato tutte le maniere, ma non ho nulla da battere. Per fare entrare il mio genere non si vuole, prima si poteva, prima c'erano tutte le cose per poter entrare, perché c'erano le imprese, allora l'ufficio di autorità quanto mi ha messo dentro, non hai idea, tutti praticamente. L'officina io ci ho lavorato, avevamo 250 dipendenti, ce ne sono neanche 60, fate il conto, forse anche di meno, il resto sono tutti con noi, tutti tra Acciona e Banola. Tu adesso cosa sei, Acciona? Sì, io Acciona, perché sono andato via da Banola, perché a me il portabile non mi piace, devo fare i turni a Trucco Reale, ad Alghero, a Albi di Ghinzo, ma no, devo fare i turni già. Io invece faccio le mie 6 ore 40 in giro con la macchina, sono responsabile della mia zona e non ho problemi. Ah beh, quello sì. A me sta di chi si numero in classe, che sto per finire il mangino. Sì, ho detto già Ilaria, adesso lo chiama Mario, me lo faccio dare e poi te lo mando su WhatsApp, capito? E poi te lo mando su WhatsApp. Caro Marco, sento che l'avevi visto bene a Marco, bidello. Oppure uscere. Bidello, è come mettere una volpe nel pollaio. Non fatevi nulla, non lo sai che prima, ti ricordi quando tua madre insegnava ai bidelli e pulivano le aule e lavavano per terra? Anche mia madre era bidella all'istituto nautico a Porto Torres e quindi faceva quel lavoro lì. 5-6 anni prima di andare in pensione mia madre non faceva più niente, stava in bidelleria a rispondere al telefono e passare le circolari, basta, non faceva niente, capito? Perché siccome quella è provincia della provincia, è tutto nautico della provincia, aveva assunto una cooperativa di pulizie, ma per immaginarci, quindi nelle scuole adesso i bidelli non fanno niente, rispondono al telefono e passano i circolari, le pulizie le fa una cooperativa, ma per immaginarci. Perfetto per me. Che arriva sta gente, Clara. Chiudo, a metà di chi si numero. Ciao a tutti, buona serata, ciao Marco, Certiglia. Devo chiudere che arriva sta gente, ciao. Oh, doppio route, sentiamo, saluti in casa. Te lo mando dopo, guarda il telefono che te lo mando. Avanti Marco. Ciao Gianni, dai, sentiamo, a domani. E io ho detto, il video sarebbe bello. Ho cercato di inserirmi in una graduatoria, ma non mi ricordo perché non ero riuscito a entrare. Boh, non lo ricordo. Mi deve bello, basta che non ti mandino in punta di casino, se no ti devi pagare anche la casa. E quindi quello che ricevi, che ricavi, voglio dire, ti va in casa. Se potessi stare qua a casa e fare il bidello a Sassari sarebbe bello. Ehi! No Marco, non devi pensare così, tanto il posto di lavoro, perché quando sono entrato io in questa azienda nel lontano 1992, io ero a Cagliari, capito? Prendevo una barca di soldi, lire, e mi pagavo anche l'affitto, pur di mantenere il posto di lavoro. ero già sposato, tra l'altro mia figlia era piccolina, e quindi facevo sacrificio tutta la settimana, stavo fuori e rientravo il venerdì. Dopo le 4 uscivo, partivo a Cagliari alle 4, alle 7, 7 e mezza da Sassari, e poi ripartivo lunedì mattina alle 5. Che sacrifici devi fare? Capito? Se a te ti hanno un posto di lavoro così, no? Te lo auguro. E praticamente invece di essere a Sassari sei ad Alghero, viaggi. Se invece di essere ad Alghero sei a Nuoro, vai a Nuoro. Ok? Poi con l'andare del tempo vuol dire ti trasferiscono, però intanto c'è un posto di lavoro, sei tranquillo, non devi campare a pizzini, non hai figlioli, non hai nulla, quindi ben vengano queste cose. Sacrifici bisogna fare, io ne ho fatto tanti, tanti, capito? Tanti, ma tanti, per potermi fare un tetto di casa, a 25 anni avevo già la casa, e sacrifici bisogna farli. Certo, farli adesso a 40, quanti anni hai? Più di 40 anni, mi viene bene un po' male, ma io fra 3 anni me ne vado in pensione, già praticamente messo per iscritto, capito? Io ho fatto 57, questo mese a 60 anni proprio sono già in pensione, perché faccio 42 anni di contributi, dovevo farne 41 e 6 mesi, invece arrivo quasi a 42. Perché? Perché ho iniziato ragazzino a 16 anni, stavo già lavorando, caro Marco, per esigenze familiari e per tutte le cose che prima c'erano, adesso non ci sono. Capito? Adesso ci sono i figli di papà, campano sopra i genitori, capito? Oppure i genitori sono morti, le lasciano l'attività e quindi sono fortunati. Io purtroppo, mio padre è morto che avevo 3 mesi, quindi c'è la necessità di andare a lavorare, sia io e mio fratello, grazie a Dio anche mio fratello va in pensione il prossimo anno, abbiamo iniziato molto molto giovani, capite? Eia, erano altri tempi, dai, e altre necessità, come hai detto tu. Io sai che mi sto addormentando, non so perché. Dopo che mangio mi viene questo, gli occhi a mezz'asta. Insomma, un po' così, dai. Vabbè, radio, dai, migliori occasioni sentiamo. Cerco di stare sveglio accendendo la TV, non lo so. Io oggi uscire un po' mi è costato, tra virgolette. Ero tutto zonato, un po' di testa, un po' di muscolo, mi sentivo debole. Certo, la pressione non è molto alta, la minima è un po' bassa, soprattutto la minima. E quindi, vabbè, dovrei entrare un po' nell'ordine di idee che non sono agli arresti domiciliari, capito? Lo so, Marco, ma io ti ho già dato il consiglio, cercare di rientrare un po' alla normalità con le ore sia di pranzo che di cena. Riposare normalmente, ma non è che puoi costringere la tua madre a uscire tutte le volte che vuoi tu. Cazzo, sei grande, pigliati la macchina, esci, dini. Non ho detto perché uno non ce l'ha fatta, ti prendi la macchina e te ne esci, ma non stare tutto il giorno in casa, capito? Io stamattina ad esempio sono uscito, ho sistemato il cane, alle 10 ho preso la macchina, ne sono uscito, sono sceso da Gigi, ci avevamo preso il caffè, l'aperitivo, mi sono visto Massimiliano, due chiacchiere, a mezzogiorno e mezza sono andato via, sono passato allo spio, ho preso due cose che mi aveva già segnalato mia moglie, non ne sono rientrato a casa, però bisogna uscire. Poi la sera anch'io sono un po' stantio a stare in giro, ma non c'entra niente. Io la mattina sono tutta la mattina in giro, però tu che non fai niente, escitene, la mattina c'è il mercatino, cosa te ne fotti se trovate da una voglia di uscire? E prendi la macchina e fai una passeggiata al mercatino, magari trovi qualcuno, due chiacchiere, così, giusto per guardare, per uscire, ma esci, cazzo, mi pare un detenuto davvero. Torna, devi andare, torna. La razza pignana non la vogliono, no, che c'ha le ali. Vabbè, oggi l'ho morito e c'è un bello cane. a me se non è stato come se l'ho fatto a me. Ma sono ricco, e poi alle 9 e mezza. Non ho capito tutto, ma con la tappina la lascio a casa, non c'è, non posso ancora. Sì, ma vedi Antonio, tu magari c'è Giovanna sotto, una cazzata c'è il cane, esci, ti piace magari andare a berti una cosa anche da solo, vai, torni, lui proprio nulla, lui zero, zero sotto zero, usciva un po' prima con Ivan, aveva sino in buca d'urucci, quindi non usciva con Ivan, e così, dai, e va Marco è così. È molto assennato, molto a casa, no? Nella fruttinusa, non beve, non fuma, mangia e dorme, capito? E quindi è così. Va bene, a proposito di mangiare, sono le 8:10, io vi saluto, un abbraccio a tutti, buon fine domenica, buona cena a tutti, ci sentiamo domani, che mo spengo tutto davvero, vado a vedermi TG, poi si cena, nanna e domani trabacco. Ciao ragazzi, buonanotte. Deia, ciao Claudio, dai, ci sentiamo domani. Buonasera, buon tutto. Ciao anche a voi, buona serata, buon tutto alle prossimine, ciao ciao. Ciao ciao, io già c'è l'altro, già. Ma c'è tu punto un po' da fondo. Deia, almeno quella è carne magra, capito? È leggero. Sì, in effetti ma se da questa parte è venuto questo torpore. C'ha voglia proprio di starmene sdraiato a letto, con la TV, oppure sdraiato qui col baracchino, ma sempre sdraiato. Poi quello che non mi aiuta è questa pressione bassa, Tonè. Non ti aiuta a stare un po' su, capito? Ehi, non ho voglia neanche di parlare, Antonio, infatti adesso chiudo. Mi guarda un po' di telegiornale, poi si vedrà cos'altro c'è, dai. Ciao Antonio, buonanotte, sentiamo in migliori occasioni, dai. Ce l'ho già, quelle da sciogliere nell'acqua, il complesso multivitaminico A, B, C, D, quelle tutte le vitamine, ma non è questione di vitamine, capito? Vedi, spadiglio, un vecchio si è diventato, un vecchio, è precoce poi questa cosa, un po' questa, sempre questa fiacchezza che è sonnolenza. Vabbè, dai, non ne parliamo, ne abbiamo parlato tante volte, ci vediamo un giorno o l'altro, dai. Comunque adesso c'è freddo, Antonio, però un pomeriggio stava bene, almeno qui dove sono io, che non sono in alto, stava bene. Sono uscito in maglietta più camicia felpata, non ho portato giacca, sono andato alla macchina e siamo andati da Auchan. Trovare le donne che sono a caccia di cosa per farci fatto bene. per carità, ne abbiamo parlato l'altro giorno. Non mi piace a me cercare. Finché lo fai in casa, vabbè, sei in casa tua con i tuoi genitori, ma fuori non va bene. A cercare donne che ti mantengono. Mi fa schifo quella cosa lì. Vabbè Antone, dai, ci sentiamo a condizioni migliori. Buoni, ciao ciao. Ciao Marco, domani. Stai bene, buon lunedì e buona TV allora.